il canale 10, c'è qualcuno? Hola. Chi è, va? Sì, che basso di radio, chi sei? È molto basso, sì. Guarda il blacchino, non si sa mai che l'hai abbassato. Sempre basso, ti sento di radio. Sempre basso. Cioè, o la batteria scarica, se è qualche amplificato, oppure magari dipende dal micchigin, prova a vedere. Hola, prova. Adesso è cambiato, là. Adesso sì. È numerico, certo. No. Sono Volpe. Ah, ciao Vittu. Praticamente cosa era? La batteria? No, niente, è qui il potenziometro, questo è l'MBP5, e quando non lo usi molto, i potenziometri purtroppo hanno bisogno di revisione, devi ogni tanto toglierli e pulirli, soffiare il compressore, di un casino. Ho capito. Vabbè, ci sono anche le bombolette d'aria, puoi usare quelle, che vanno bene lo stesso. Beh, come stai? Non ti ho più sentito, Io mi sento ogni tanto, però in altri canali magari non ho possibilità di intervenire. Quando giorni fa l'ho agganciato un attimino, però c'erano tanti modulanti e non mi sono inserito nella mischia proprio per non aggiungere acqua al brodo. Beh, sempre con la musica stai andando avanti oppure hai mollato? No, non ho mollato, per quello che ho pochissimo tempo a disposizione. Ma guarda, un paio di settimane fa mi sono trovato con Bombolino lì in via Bongino, a un circolo dove c'era mia figlia che stava facendo karaoke. Io l'ho aiutato, l'aiuto un po', no, così. E mi sono trovato con Bombolino, poi c'era anche Luca, Luferiello, e niente, abbiamo parlato un po', abbiamo bevuto una cosina insieme. Siccome c'era un compleanno, quindi li ho invitati anche loro. E abbiamo fatto anche due festicciola, via. Ho capito. Sì, vanno, di solito vanno sempre nello stesso locale, sia Luca che Bombolino, vanno a cantare. Vabbè, io non ci vado, canto lo stesso, ma non ci vado a cantare dei locali. Me lo faccio su Soundmaker, al computer. Anche se installato il Soundmaker, io mi ero iscritto anch'io, installato, però mi sono cancellato perché c'era un po' di baleami, se si può dire. Io purtroppo, ahimè, mi dispiace dirlo, con rammarico, ma quando ascolto altri che sono suonati, non perché anch'io sbaglio, ma quando sento cantare persone che stonano, mi dà fastidio, la verità, purtroppo sono fatto così, non ci posso fare niente. Lo so, vabbè, perché uno quando è più perfetto nella canzone, nella musica, è normale che possa dare fastidio, però Soundmaker è un programma dove tu vai per divertirti, non è che vai per sfociare il fatto che tu abbia bella voce o che cosa, però io mi sono accorto che a furia di cantare l'ho educata la voce e adesso mi arrangio abbastanza bene, dai. Sì, meglio così, certo, uno vabbè si arrangia come può, però il problema è che tanti non si rendono conto delle stonature che fanno perché non hanno un'educazione vocale. Perché, dico io, prima di iniziare a fare un percorso non fai prima un altro percorso, quello di intonarti bene e poi incominci. Poi è chiaro che qualche errore si fa, anche più grandi artisti fanno gli errori e suonano. Anche Pavarotti ha suonato in America in un concerto e l'hanno criticato, ma sono mosche bianche, e quello è un professionista, è il professionista dei professionisti, anche lui sbaglia, anche tutti sbagliano, ma una cosa è sbagliare una volta, due, l'altro è che non sai cantare proprio, sei stonato, esci fuori tempo, non disastro, non cantare così, non rimanetene tranquillo, non ascolta se vuoi fare proprio della figura. A me è sempre piaciuto cantare, dico la verità, però quando andavo dove c'era il karaoke un po' mi vergognavo a cantare davanti agli altri, questo è il mio problema. perché se no l'avrei voluto fare. Io se dovessi cantare solo una volta poi mi prenderebbe male, capito? Andrei sempre, però non riesco a vincere questa timidezza strana che mi è venuta nel cantare davanti agli altri. Eppure faccio duetti su Star Maker e canto con altra gente, quindi diciamo un po' di esperienza ce l'ho, capito? Però davanti agli altri non mi piace cantare. Se andiamo tra amici io canto sempre, capito? Canto quando facciamo le feste a Capodanno, per dire, dopo che si mangia mettiamo karaoke, così ci mettiamo a cantare. Io sono il primo che canta perché mi piace. Tra amici sì, mi piace, ma con gente sconosciuta non lo so, mi piace così. Però devi fare coraggio e qualche volta svezzare questa timidezza, perché la timidezza non è inculcata su di noi, è noi che ce la procuriamo, ma basta che lo smetti una volta, basta che una sera, forse ci sentiamo, capite, ti faccio venire una serata dove c'è mio figlio che lo fa, io ci vado quasi sempre quando non suono per conto mio, e così ti spedisci nella mischia. Beh, vedi, mia figlia ha cantato per TVG, accompagnava, per dire, le modelle che sfilavano cantando, capito? E poi, vabbè, ha sempre avuto la passione per la musica e è andata, e mia Valdetta c'era praticamente, tipo, cosa ti posso dire, c'era una maestra di musica che faceva lezione e ne aveva scelto due o tre che li portava a fare anche le serate in piazza, eccetera eccetera, quindi le è piaciuto sempre cantare. E lei mi diceva che all'inizio io andavo solo fuori tempo, la voce non era male ma andavo fuori tempo, piano piano mi sono arrangiato, dai, ho cercato di seguire. Sì, appunto, le prime volte ci va pure tempo perché non hai un'educazione del tempo, nel senso che quando le battute tu devi entrare a seconda, se stai cantando e la traccia ha una, poi il karaoke sembra così ma è un po' vicino e che devi andare a seguire, se non conosci bene la canzone, molte volte il testo che esce in via di play va fuori tempo il testo, ma tu, se hai capito che il tempo non è quello, devi cercare, non è così difficile spiegare, bisogna essere lì per spiegarlo, no? E quindi devi concentrarti un attimino e anticipare o anticipare, questo è il problema del canto sul karaoke, tutto qua. È vero, Vito, a te non ti è mai successo che secondo la base che c'è ti porta a stonare? A me all'inizio succedeva, secondo la base che c'era mi portava a stonare. Se la base mi piace canto tranquillamente, se invece la base era diversa da come piaceva a me non riuscivo a seguirla, capito? Sì, succede anche questo. Allora il problema è che ci sono molti questi ragazzi che vanno a fare le karaoke, non hanno basi buone, basi fatte con criterio, vuol dire, sono le classiche basi MIDI, i MIDI normali sono fatti con un pochi suoni, eccetera eccetera. Quindi, ci sono il carpool, ci sono altri tipi di aziende che fanno la musica ben fatta, gli strumenti giusti, a tutti a tempo, ecco lì ti trovi meglio, per cui non ne stoni e ne vai fuori tempo, perché vai, ti inculca quella traiettoria già da seguire, quindi non puoi sbagliare. Capo, è vero. Io andavo su Van Basco prima, non so se tu conosci il programma Van Basco, e lì ti puoi regolare tutto, i toni, tutto quanto. Sì, beh, figurati, non conosco Van Basco. Van Basco è stata la prima che ha fatto le MIDI, però Van Basco ormai è superato, non esiste più. Le basi MIDI di Van Basco sono cancellate, non le mette più nessuno, ormai si va su altri programmi, eccetera, eccetera. Quindi appunto lo suonamento è determinato al concentramento della canzone. Poi ci sono persone che vogliono cantare le canzoni più difficili, ma perché devi cantare una canzone difficile quando è già difficile per gli artisti e per i grandi? Vogliono cantare quelle canzoni, non cantarle quelle, cantati una canzone facilina che cantano tutti, che ormai è orecchiabile. No, vanno a cantare in inglese. Io vanno certo sette ragazzi cantare in inglese, ma se non capisci neanche una parola, ma perché la canti quella canzone? La tappi zitto, non cantarne per niente, se fai più bella più. Eh sì, e vabbè, si gasano, certi si gasano, cantano in inglese, vabbè, ma noi la canta sia l'inglese che l'italiano, canta tutti e due, però vabbè, già c'ha delle basi inglesi, di inglese, eccetera, eccetera, l'ha fatta a scuola, e poi vabbè, è anche laureata, quindi è una persona che ha studiato abbastanza. Quanti anni di conservatorio ha fatto? No, conservatorio non ne ha fatto dei corsi di canto, capito? C'era una maestra di canto via Baldeda, dove c'è praticamente quel caseggiato comunale, non so se tu sai, una volta c'era una casa famiglia lì, e avevano fatto praticamente dei ritrovi per ragazzi, anche per delle ragazze ritirate, là. E c'era questa maestra di canto che è molto brava, ha fatto anche il conservatorio, questa maestra di canto, e niente, ne aveva scelto due o tre, e c'era anche mia figlia in mezzo, li faceva cantare anche nelle feste, ha cantato a Sorso, ha cantato in diversi paesi, capito? E niente, poi si è appassionata, adesso per dire, a Bologna, e questo suo collega dell'università, gli è morto il padre, praticamente bravissimo, dice a scuola, eccetera, eccetera, però gli è morto il padre, la madre non ce la faceva a continuare a pagargli gli studi, allora cosa hanno fatto? Hanno organizzato tra tutti i colleghi dell'università un concerto, c'è chi suonava, c'è chi cantava, Manuela ha cantato, e hanno raccolto dei soldi per aiutare questo ragazzo, capito? Perché dice, non si meritava di essere aiutato perché è troppo bravo, infatti da c'è laureato con 110 lode, bravissimo. Certo, molte volte c'è una sfortuna. Allora, la fortuna cos'è? Quella di per iniziare proprio ad avere un successo, un minimo di successo. Ecco, quando conosce quelle persone, perché bisogna conoscere anche certe persone che sono all'interno di queste strutture. Se conosci una di queste, basta una piccola persona che è addentrata, che ti agganci. Vedi, a me rispetto tantissimo quando ci sono dei ragazzi bravissimi, e noi a cui a Sassari, ad esempio, ho sentito da poco un gruppetto di Sassari, in un paesino qua vicino, suonare, ma di una bravura, questi ragazzi suonavano, a me non mi vengono neanche, sono che sarebbe più bravi, però fanno attenzione, musica diverse dalla mia, cioè le musiche che faccio io per i ragazzini non sono nemmeno diverse di musica, però erano di una bravura suonando, facendo questi, fanno rock, un rock, un metallo, ma tu devi vedere come suonavano bene, ma di una, però purtroppo qua o è il mare che ci ostacola, oppure questi ragazzi non esplodono, non c'è qualcuno che li possa prendere e dire voi siete presi, vedete come io sto facendo il business, via. Devono essere estradati, devono fare la domanda tu sì che vale, e da lì magari vengono conosciuti da gente, diciamo, che vale, che può aiutarli, capito? Ho visto che a Tussi che vale stata gente è andata avanti. Sì, ci sono questi programmi, appunto, al sole, prima c'era Castro Caro, che fa del tutto, che prendeva del culo, mi dice caro Castro, quando mi cazzi. Comunque hai visto, non so se tu lo segui, tu sì che vale, quel ragazzo siciliano di Palermo che è andato e ha detto che aveva vinto diversi premi in America, eccetera, eccetera, l'hanno sfottuto, l'hanno preso in giro, praticamente gli ha detto che era anche stonato, Zerbi gli ha detto. E allora lui su Facebook e cose su tutti i social ha mostrato che era vero, addirittura ha fatto parlare la gente che l'ha premiato e ha fatto successo, ha portato avanti dei ragazzi, li ha fatti crescere, però sempre puri, capito? No, non li seguo questi programmi, so che ogni tanto fanno appunto queste trasmissioni di questi che vogliono cantare come si chiama? Tu sì che vale, praticamente non è solo canto, c'è un po' di tutto, ci sono prestigiatori, ci sono gente che fa circo e fanno ginnastica artistica, tutte queste cose, sollevamento pesi, un po' di tutto fanno, capito? E ce ne sono molto bravi, ma molto bravi veramente. Sì, sì, sì, ce ne sono. Una volta avevo visto una trasmissione, però era roba americana, tipo questo, tipo che hai detto tu adesso. È una trasmissione, ma cazzo, di una bravura, perché c'era una donna, avevo sentito una donna di una certa età, ha fatto un pezzo di Céline Dion, che era una cosa pazzesca. Io sono rimasto invogliato addirittura, e secondo me era meglio di Céline Dion, quella che ha fatto donna, che ha cantato quella canzone. Una cosa pazzesca, già sono stati tutti in piedi, addirittura non si è messo a piangere, dalla bravura di questa donna, che aveva una certa età, lo sto dicendo, forse avrà avuto una settantina d'anni, ha una voce spettacolare. Sì, ne ha cantato anche una da poco, due settimane fa, Donna Così, ha cantato e praticamente sono rimasti tutti a bocca aperta, si sono tutti alzati quelli del pubblico e anche i giudici si sono alzati, ha cantato benissimo, ma quello che c'era questa settimana, un uomo di 86 anni ha sollevato fino a 90 kg, è arrivato, ha cominciato da 70, ha fatto 80 e poi 90 kg, capito, campione del mondo, eh? Sì, ci sono delle personaggi veramente nascosti, voi improvvisamente questi ritengono che hanno delle qualità pazzesche e poi alla fine non ce la fanno più e tramite qualcuno vanno poi a partecipare. È bene che lo fanno, così fanno capire che non c'è bisogno di avere grandissimi successi per essere bravi, anche piccolissimi che sono nascosti nelle case, sai quanti ce ne sono bravissimi? Ah, è una marea. Sì, è vero, è vero. E questo qui praticamente aveva diversi primati, capito? Questo uomo anziano. E ha cominciato, diciamo, già da grande a fare sollevamento pesi, eppure il suo coach ha detto che ha vinto diversi premi, ha vinto premio nazionale, ha vinto un sacco di roba, di culturismo, di sollevamento pesi. Ed è un uomo grande, capito? Già un uomo grande. 89 mi pare che era, non 86, 89. Beh, fatto sta che questo uomo aveva una forza inaudita, cioè infatti tutti si domandavano come fa a avere questa forza a questa età. Sì, appunto ci sono queste persone che hanno delle qualità veramente straordinarie, però non sono valutate perché ha 89 anni eccetera eccetera, sì, lo ammirano, gli fanno tutti gli elogi di lui, ma alla fin fine che non può far nulla perché ormai l'età ha superato la... Se avesse avuto 20 anni probabilmente le cose sarebbero state diverse. Sì, ma lui vanta di aver vinto tantissimi primi, capito? Anche se ha cominciato tardi, ha cominciato a 70 anni, qualcosa del genere. Però ha detto che prima faceva altre cose, poi ha smesso e voleva tenersi in linea e ha fatto questi, capito? Cioè, muscoloso, bello, capito? Bello atletico, si vedeva bello asciutto. È un atleta, via. È meglio, ma si devono considerare fortunate queste persone che hanno potuto avere appunto la possibilità di poter seguire questo sport qua. Io lo sport sono azzarato, non ci capisco un cavolo, è la verità. Non mi piace lo sport, non mi piace il calcio, non mi piace tutto. vado per soltanto per la mia passione. Ehi, vabbè, anche a me non piace il calcio, non le guardo mai partite, non mi interessa. Però c'avevo mio padre che per dire si alzava anche di notte a guardare il pugilato, anche alle 4 di mattina se c'era contro il pugilato si alzava e lo guardava. E dipende, mio padre era appassionato sia di calcio, sia di pugilato, sia di ciclismo, e impazziva per questi sport. Se lo disturbavi, quando c'era, si metteva la radio con le cuffie e più guardava il televisore, cioè guardava due cose insieme. Che bravo, simpatico, era una persona di una, come dire, aveva un carisma per queste cose, che magari tu dicevi determinate cose e non le sapeva, però su quel campo lì era espertissimo. Bravo. Sì, ha avuto sempre la passione, lui è sempre andato in bicicletta, non ha mai avuto macchina, lui era appassionato di ciclismo, giovane ha fatto ciclismo, quindi sempre in bicicletta, andava a lavorare in bicicletta, tornava in bicicletta, non ha mai avuto macchine, capito? Mai nessun tipo di vizio, né fumo, né bere, né niente. Proprio era un uomo senza vizi. Lui si accontentava delle cose semplici, però per il calcio, guarda, era partito, ti tirava tutto quello che aveva se lo disturbava. Una volta come si è alzato, le ha buttato la sedia in terra quando ha segnato, perché lui era interista, come ha segnato l'Inter, si è alzato, tutto canto in terra. Un bravo uomo. Dimmi una cosa, di che classe era? Mio padre era del 12. Del 12, il mio padre era del 6, immaginati. Per carità. Lui aveva, anche mio padre non era molto sportivo, gli piaceva il pugilato e basta, non seguiva altre cose. No, vabbè, babbo poi aveva preso, aveva la moto, macchina non ne ha mai avuto, immagino tutto a quei tempi, macchina, e chi non aveva le anni 30 e 40 macchine, ce ne erano 4 a Sassa. Infatti. No, poi praticamente a lui piaceva stare con la famiglia, tutte queste belle cose, capito? Ci voleva tutti a tavola insieme, poi potevamo anche uscire, però a quell'ora lì ci voleva tutti a tavola, c'erano delle regole vigorose a casa mia. Solo tu e io, quando suonavo le campane di San Giuseppe, via, tutti a casa, alle 6:30 di ritorno, se non sarei 6:30 a casa erano così. Cappa, sì, prima era così, c'era molta disciplina, però lui diceva, l'unico momento che ho di vederci tutti insieme, voglio stare tutti insieme con la famiglia, perché io sto lavorando tutto il giorno, l'unico momento per vedervi è questo. Non avevano torto già, perché bisogna capire anche, quando ha una certa età l'uomo, a parte che io ad esempio mio padre penso che già vecchio, c'è una storia che ha 89 anni, lui era, quando sono nato io lui aveva 42 anni, io lo conosco tutto vecchio praticamente. Gli uomini degli anni 50 che avevano 40 anni erano vecchi, non è come adesso uno di 70 anni va in un ufficio. Prima era tutto diverso, gli uomini erano più lasciati andare, eccetera. Però c'era questa disciplina di ritornare a casa, perché i genitori nostri non erano come questi di adesso, vanno in giro, non rientrano proprio l'indomani mattina. Prima quello là, tu non è che lui vuole vedere tutti a casa, è che se tu rientri alle 8, e alle 8:30 si cena, per dire, no? Non puoi rientrare alle 10, perché poi tua mamma deve preparare il pranzo, la cena anche per te. Non si può fare una cosa del genere, tutti insieme bisogna cenare, ecco perché c'era questo modello di disciplina che era educativo e anche importante per la vita. E poi rigorosamente prima di mangiare si faceva tutti la preghiera. Beh, lì su motivi non, vabbè, le usanze, bisogna vedere che era, che aveva genitori religiosi, la preghiera noi non la facevamo perché non c'era questo sentimento ecclesiastico, a casa mia purtroppo non c'era, però in molte case si usava, devo ammettere. Sì, sì. E vabbè, ognuno la pensa come vuole, non è che, però lui ci teneva a ringraziare il fatto che c'eravamo il cibo davanti, eccetera, eccetera, tutte queste cose, lui ci teneva, perché lui era un uomo di chiesa, era catechista, andava sempre a messa, eccetera, eccetera. E comunque i genitori di allora erano diversi, adesso cosa sono i genitori, magari dai, tutti i figli randaggi, guarda, ce ne sono, che se li vedi staccando le mattonelle, tirandosene addosso, i genitori lì parlando non gli dicono nulla. Questi ragazzi da adesso sono di una personaggine che vogliono preso pezzi in culo, adesso in radio non è una parlaccia, perché ormai sono diventate parole normalissime, però veramente, questo è, io ho visto dei ragazzi un giorno, via di Regina Margherita, nei parcheggi, dei ragazzi che stavano prendendo a calci lo sportello di una macchina, il farfango posteriore, proprio a calci, non sapevano cosa fare, e prendono la testa. Ma qua la macchina, il titolare, il proprietario della macchina, uno arriva lì e ti trovi, cosa deve fare se ti vede? Se non ti vede, pazienza, ormai se la trova a macchina. Ma se ti vede lì, che cosa deve fare il proprietario di quella macchina? Minimo si compromette, minimo, perché cioè uno fa tanti sacrifici per prendersi la macchina e poi se la prendono a calci, non stiamo scherzando. A me purtroppo non è mai successo, purtroppo veramente non è successo, avrei voluto che successe a me una cosa del genere, perché poi certo che quello lì non l'avrebbe fatto mai più nella sua vita, né lui né i suoi compagni. E invece a mio cognato è successa una cosa, sono andati con mia sorella all'ultimo spettacolo ancora quando c'era l'Ariston aperto, e a mezzanotte e mezza sono usciti, sono andati a prendere la macchina e mia sorella gli ha detto, ma quello lì non è la macchina tua, sì, c'è gente dentro, ah, si sta ripresso, mio cognato era alto 2 metri, è grosso, ti puoi immaginare, ha aperto lo sportello della macchina, prima te, questo qui gli stava stracciando i pannelli della macchina per rubargli le casse, e la macchina nuova, e lui gli aveva messo, sai come si faceva prima, le casse nei pannelli. Beh, fatto sta che già lui deve pregare solo una cosa, che non ve la rugo e fudillo, perché ha preso Sussa e gli ho preso i documenti, gli ho detto allora adesso tu domani andiamo alla Renault e diciamo quanto bene, mi devi dare i soldi, se no io con i tuoi documenti sto andando in questura, gli dico che trovate i documenti del ladro che mi stava rubando dentro la macchina e ti faccio arrestare, l'indomani tornato pure di là. Non sai, no? Meno male, ha trovato un grosso duro, perché c'è gente che io non mi sarei presentato così, avrei agito in un'altra maniera molto più drastica di quella che mi sta raccontando, e credo che non l'avrebbe fatto mai più quello lì. Sì, ma Marco, cioè è un cristiano, se tu lo vedi è un cristiano di 2 metri, capito? 1,95 m alto, è grosso, alto. Lui mi ha detto, è chi lo verrà rucco e cudillo, a dargli rigagnotti vostri, e se l'ha presi però non forti come volevo io. Da poi la giubilato Barugolarino, la giocava a due alla macchina e gli ho detto, adesso mi dai i documenti, si è fatto dare i documenti suoi, e gli ha detto, domani se tu a me non mi porti i soldi, sono là in questo, ti sto facendo la denuncia, e poi gli dico che ho trovato i documenti dentro la macchina, che mi hanno tutta scassinata, e che ho trovato i documenti, così almeno ti prendono e ti mettono le manette. E ti mettono in gattabuglia, per carità. Sì, però attenzione, bisogna stare molto attenti, perché questi ragazzi, bisogna vedere se sono 2 o 3 o 4, quando vanno a fare questi furtarelli così, sono organizzati con delle armi, e le armi poi potrebbero essere usate da questi per difendersi. Quindi tu, essendo anche un colosso, un personaggio di una certa stazza, ma con l'arma non c'è nulla da fare, è difficile quello che voglio dire. Perciò bisogna stare anche attenti poi alle reazioni che si intercorrono. Vabbè, ma tu devi vedere come ti ha fatto la macchina, no, era solo. solo questo qua, capito? L'ho visto, l'ha visto mia sorella e sono andati a prendere la macchina e mi ha detto, ma c'è gente dentro la macchina tua, ma stai scherzando? Ha guardato, dai, siete zitti, appena ha fatto lo sportello, direi cultura giusta, oi, io dico si la mette a mezzare il capo, dice già è vera bogurugo e codillo, perché non potevo prendere la rincorsa e prendere la cagnotti furti, perché se no dice che aveva abbinato una giusta che ne l'abbia detto fino a cando gamba e ne l'ho portata io, perché lui non era di qua, era di Porto Torres, ce l'ho portata io la macchina a aggiustare, gli ha dovuto cambiare tutti i pannelli, tutto quanto, tutto stracciato, perché non ha stracciato proprio il pannello. Accidenti, mi ha fatto un danno, che cos'era? Che era non era, un R5? R5 e GTL. Ho capito, beh, allora, va bene, il primo modello. Ma erano ben organizzate, perché, sì, si facevano impianti belli a quel tempo, però questi ragazzi però cosa fanno? Era tossico, probabilmente, perché tanto quel furto che cosa fanno? Lo prendono e lo rivendono poi a delle lire, purtroppo questi tossici, ma è tossici, ma esistere dov'è? Invece noi una volta, sempre lì, andando all'Ariston con questo amico, andiamo all'ultimo spettacolo e prima di andare, sai, c'erano gli stereo estraibili, lui c'aveva un'audiola e prima di andare al cinema ha preso aperto il cofano e l'ha messo dentro, ha chiuso la macchina, siamo andati al cinema, poi ha detto, oh, prendi lo stereo, che dice io che ce ne andiamo a farci un giro, ce ne scendiamo al Alghero, dopo che siamo usciti dal cinema, sai come si fa da ragazzi, e mi dà lo stereo, dai, qui ci ascoltiamo un po' di musica, andiamo a bidare lo stereo, non verrà più lo stereo, la macchina tutta chiusa, anche il cofano, e non c'era più lo stereo, deve essere l'hanno aperto e poi l'hanno richiuso anche, capito? Mi hanno rubato lo stereo, siamo dovuti andare in questura e questo poliziotto l'ha presa alla leggera, gli ha detto che anche a lui gli avevano rubato la ruota della macchina, che questo e quell'altro, di andare domani a fare la denuncia perché di notte non ne prendevano di denunce, poi l'ho detto a mio suocero che era rispetto alle pulizie, che si è mai detto che era da galera, allora voglia che ci si devono prendere anche di notte le denunce, ma stiamo scherzando. Perché dovevano andare ai carabinieri, purtroppo la questura chiude e loro non vogliono fare niente, sono un po' poltroncini in polizia, i carabinieri mi sembrano più seri. E infatti siamo andati dai carabinieri e ci hanno preso la denuncia, però non l'hanno mai trovato. Cioè gli hanno preso lo stereo e richiuso il cofano dalla Golfo, me lo ricordo ancora, e un'altra volta gli hanno rubato le patate, cioè non ci vengo più al cinema di lì, e c'era un bel giro di Viale Caprera al buio, è come parcheggiare la macchina, ti fanziani i lavoriti. Sì, quella era una zona che era presa d'assalto proprio ai furti, c'era un periodo che avevano, facevano i furti in via Gramsci, era una cosa, quella via lì era una cosa pazzesca, ma i furti che hanno fatto in quella zona, nel sentivo di tutti i colori, amici che venivano fuori da me in negozio dove lavoravo, e raccontavo che mi hanno rubato questo pannelli, facciamo come detto il tuo cognato, e facevano danni a tetti, il cruspoto addirittura spazio rotto a martellate per smantellarne i contachilometri, evidentemente erano richieste di commissione per venderla, cioè rompevano le macchine per vendere i pezzi, allucinante. E c'era un periodo che rompevano tutti i vetri, quello hanno beccato, un poliziotto era affacciato alla finestra quando lo stava facendo, con quei ciottoli rotondi del mare, ce ne presenti quelli che tiravano nei vetri davanti e dietro, se li spaccavano, facevano tutta la fila delle macchine. E un giorno c'era un poliziotto affacciato, ha chiamato la pattuglia e gli hanno pizzicato, gli hanno trovato i ciottoli dentro la macchina e loro hanno detto che li servivano per fare campeggio, per tenere ferma la tenda. E la polizia ha detto sì, va bene, dopo la mettiamo la tenda, per il momento venite con i pizzicati. Una volta avevano fatto tutte le macchine di via Baldella, tutte, poi facevano tutta la città, almeno che erano dei carrozzieri che commissionavano. Sì, sono dei ragazzi che fanno questi lavori qua, sì, come sono i carrozzieri per trovare lavoro, no, ma tutte quelle piccoline del mare si usavano per non usarne molte, la legavano con una lenza, che quella è stata trovata, con una lenza, la candela, la ceramica, la spezzavano dalla candela tutta intera, legavano la lenza al violino dove è messa lo spinotto del cavo della candela, e lo legavano lì, tiravano tutto il vetro sopra. La ceramica è tremenda, è molto più efficace della pietrolina del mare. Quindi non colpito, rompeva anche il parabrezza, penso, il parabrezza era stratificato, non era temperato. Quindi fino a rotto il vetro. Ecco, e usavano questo metodo. E facevano questi lavori, sono delinquenti, eh. Sì, è ceramica quella delle candele, è ceramica. E per quello che si spaccano i vetri, li usavano per rubare lo stereo, le candele, per spaccare il vetro. Però questi qui le spaccavano proprio davanti e dietro, capito? Cioè, ti facevano un danno enorme, costano i miei vetri, se lo fai a un Audi una cosa del genere, ti costa un bene di là. Solo un Audi, perché se non è il Mercedes, il BMW, quando rompono il vetro non è che rompe il vetro, dice vado, lo compro, non è di solo a comprarlo. Intanto non c'è, devono ordinarlo perché allora era così, non c'erano tutti questi, come dove lavoravo io, erano organizzatissimi, non riesco a fare. Però certe macchine hanno un certo prestigio, non puoi tenere un assortimento di cure di una certa qualità. Allora cosa fai? Non li hai, devi andare al concessionario, il concessionario non ce l'ha, lo devi ordinare, intanto c'è la macchina ferma, quando arriva tra una settimana benissimo arriva, non è che quando arriva tu poi hai finito, lo fai e te ne vai, no, il carrozziere per montarlo, quanto costa più del vetro. Sì, vabbè, adesso c'è quello che aggiusta i cristalli, eccetera, eccetera, quelli lo montano, c'hanno una pratica montando i cristalli in un stio, lo montano in 5 minuti e ti montano un vetro. Però, vabbè, il casino è anche toglierlo, tutto il vetro rotto, tutto gatto, pulirla bene, mettere la guarnizione, cioè bisogna, c'è lavoro, secondo che macchina è, poi ce l'ha attaccato così col mastice, c'è il vetro, secondo che macchina è, ce l'ha dentro la guarnizione, dipende. Sì, c'è una procedura difficile da fare, ecco qualche cosa, addirittura si è verificato una volta uno che un amico che conosco tanti anni, che è andato lì a sostituire il vetro, ebbene, e la mano d'opera gli è costata più del vetro, perché il vetro è recuperato a seconda mano dallo sfacciacarrozzi, dal Salvone, mi pare, la Marcella. È nato lì e gli è costato 150 euro per montarlo e il vetro gli è costato 80 euro. Praticamente ha speso più di manopera che il vetro. Sì, ma tanto ha speso sempre un bel, anche se l'ha preso a Marcello, l'ha pagato lo stesso. E tra una cosa e l'altra gli è venuta sempre molto, vabbè, comunque. E quello lì li avevano beccati, poi adesso ultimamente stavano rubando gli stemmi della Fiat, della BMW, eccetera eccetera, i luoghi proprio delle macchine. E dopo c'è un'altra mania, incendiare le macchine adesso. Vabbè, quello c'era anche prima, ma c'era anche prima il furto degli stemmi, perché li hanno venduti tutti gli stemmi. E adesso c'è, appunto, adesso li incendiano, perché la rubano, si montano tutto quello che può servire, che è utile per venderlo a 4 soldi, e poi la incendiano così non hai più. Però incendiandola non è che è risolto il problema, perché c'è una sigla, c'è un numero nel telaio dove viene a scoprire chi è il proprietario, perché c'è un numero di matricola, ogni telaio ha un numero di matricola nascosto, che nel sottoporta c'è uno so se lo sai. Quindi quando vanno a controllare sanno chi è il proprietario, e quindi non è che incendiandola è il loro problema. Sì. Sì, ma a volte le incidiano per dispetto, sotto commissione, dice che adesso stanno andando quelli di colore a incidiare le macchine per 100 euro, immaginati tu, che stanno facendo, fanno un po' una zona, un po' l'altra, da vicino a casa ne hanno incendiato 5 vicine uno all'altra, tutte in fila. Perché adesso speriamo che con queste nuove questi nuovi assunti, se si può dire, facciano qualche cosa, prendano provvedimenti per quanto riguarda queste persone che arrivano di colore, come hai detto tu, non siamo di colore, siamo solo nero, e vengono praticamente estinti dalla nostra comunità. Al corso non si può più andare, tutto pieno. Io guarda, al corso ci passo solo in macchina, è pieno zeppo, ce ne sono andati tutti gli abitanti della zona perché rubavano la roba anche dagli stenditori, figurati. Purtroppo noi stiamo tombando un popolo che non ci contesta. Queste persone che sono venute qua, gran parte, gli aveva ragione un politico, non faccio il nome perché se mi piacerebbe. Allora, perché non c'è un freno su questo? Addirittura andavano a prenderli. Qua non è questione di clandestini, come diceva. Sì, possono essere anche clandestini, ma cosa facciamo? Si trasferisce l'Africa in Italia, non si può, ma basta. Ma loro improvvisamente hanno deciso di venirsene tutti quanti qui in Italia, ma non si può una cosa del genere, non sono né cielo né terra, loro devono fare, siete nati lì, ecco, questo popolo, dovete vivere lì anche per un sogno di cultura, loro hanno vissuto lì e devono stare là, qua non ci stanno bene, perché noi abbiamo un altro tipo di pensarla in una certa maniera, diversa completamente dal loro, questi musulmani, con queste religioni che hanno tutte strane, non lo so, devono andarsene, devono cercare, lo Stato italiano deve cercare, deve fare in modo che questi devono essere ricaricati, tutti quelli che hanno, quelli che ormai sono regole, ormai sono qua purtroppo, sono qui partiti, ma quegli altri che vengono tutti segnalati, vengono deve ricaricati e riportati a destinazione, ma riportati là. Cosa lo facendo già da soli? Un bel po' se ne sono ripartiti, ripatriati, perché non vogliono più le reddito di cittadinanza, se ne vogliono andare, loro stavano qua solo per quello, perché prendevano i soldi gratis, senza fare nulla, e campavano così, loro si accontentano di poco, e campavano bene, capito? Adesso come la Meloni ha detto che doveva tenere il reddito di cittadinanza, un mese se ne sono partiti di nuovo dove abitavano. Ma non lo so se spariranno tutti, molti andranno via, ma non è credibile una cosa del genere, secondo me sarà difficile mandarli via, perché bisognerebbe segnalarli e recuperarli tutti qua, ma è una spesa, ma tu ti rendi conto? Allora, noi eravamo 56 milioni e siamo ormai 66, questi 10 milioni di extracomunitari non sono profughi, perché li hanno definiti profughi, ma profughi di che cosa? Ma mica c'è la guerra lì, la guerra non c'è, loro stanno scappando perché hanno capito che venendo in Italia stanno bene, mangiano gratis, si vivono. Ma noi una spesa del genere non la possiamo affrontare, perché è una cosa pazzesca, perché a un certo momento cosa era successo? Era successo che l'Italia ha chiesto all'Europa, prendete a venire anche voi un po', perché noi qua non ce la facciamo più, ma in fratelleria, non ci stanno più e sono al collasso, ma al collasso sono 10 anni, sempre al collasso sono, ma questo collasso non si può, quindi poi cosa fanno? Arrivano qui, li smistano qui e là, questi qui per vivere come fanno? Vedi via Michele Coppino, ce ne sono 5 o 6 che salgono, ma dove vanno? Dove stanno andando? Se stanno camminando, ma dove vanno? Non vanno da nessuna parte, sono campati da noi, vivono bene, e devono andarsene via da qui. Ehi, hanno capito che qua c'è l'America, capito? Qua sono stati talmente... hanno dato... hanno dato le cittadinanze a cani e pulci, capito? Cose che non dovrebbero dare alla gente di fuori. Si arrangiano, se vogliono stare qua devono lavorare, basta. Io ne conosco di questi di colore e ne conosco uno che praticamente lavora, carica la roba dei supermercati, eccetera, eccetera. E quello lì è da rispettare. Lui ha detto, io avete ragione voi, perché io ho sempre lavorato, ci sono 10 anni in Italia, però ho sempre lavorato, un lavoro, un altro lo facevo, o andavo a raccogliere bene, o andavo a fare questo, andavo a fare l'altro, sempre lavorato. Non è giusto che gli date i soldi senza fare nulla, non lo vedo giusto manco io, mi ha detto. Immaginiamo, vabbè, ma quello è fortunato che ho trovato un lavoro, ma il problema è che il lavoro non lo trovano tutti e quindi quelli che non lo trovano devono fare i randagi e vanno a rubare, quindi questo è il problema. Allora, chi è in regola, chi ha assunto un questo di questi qua, non li voglio neanche nominare perché non sono razzista, per carità, però non mi fa. Loro è un popolo che deve stare là, dove sono stati sempre, qua non ci fanno niente, qui sono, è un disturbo, no, per noi è un disturbo, perché noi abbiamo un'altra cultura, per carità, per non esagerare, dire altre cose. Loro devono starsene là, dove voi siete nati lì, ecco, anche il colore dà un aspetto, non mi piace, rimanetevene lì tranquilli, noi siamo qua pacifici, perché ci disturbate? Non vi accorgete che ci state disturbando, anche se in Italia ci sono quelle persone che forse lo 0,01% che li vuole, ma non è un contesto di volerli qua. Non avete una maggioranza, non avete niente. Noi non vi vogliamo. La maggioranza, la gran parte della maggioranza italiana non ti vuole, quindi qua non ci devi venire, hai capito? È il bello che sono anche prepotenti, capito? Sono prepotenti, anche con la polizia si girano, capito? Perché non ci sono freni, non ci sono, le leggi ci sono, non le applicano. Perché se quando tu a un certo punto arresti un extracomunitario, cosa fai? Lo metti dentro? Non lo puoi lasciare dentro, perché poi devi tornare, non ci stanno, non c'è posto. Purtroppo gli abbiamo dato e lascia passare, perché così è la volta che Salvini li ha bloccati, gli hanno fatto anche il processo. A Salvini non dovevano fargli il processo, dovevano dargli la medaglia d'oro al valore militare. Altro rispetto, io adesso mi sto facendo una cosa, ma queste persone, dico io, ma perché rischiate di attraversare quel mare che è a rischio di quanto sono morti? Ma perché devi pagare per morire? Quanti sono morti e non c'è nulla da fare, ancora continuano a venire, non ce la fanno. Allora dovrebbero, adesso spero che metteranno un freno, nel senso che metteranno una schiera di indignati, quindi quando li vengono ritengono indietro. Poi si hanno benzina, il carburante nelle queste barche, che sono barche basse, non sono barche, sono queste cose gonfiabili che si sgonfiano e muoiono. Ma perché tu devi rischiare la vita per venire qua? E non ti rimane lì. E poi la maggior parte muoiono anche perché li mollano non proprio vicino alla riva, li mollano un po' a largo e loro devono andare a nuoto. Chi sa nuotare si arrabbia, chi non sa nuotare grippa. Sì, ma se ti trovi a 30 miglia in mezzo al mare, cosa nuoti? I pesci ti mangiano, non ce la fai, non ce la fai a nuotare, a fare tutte quei miglia a nuoto, anche se sei un campionissimo. Ma voi sono tutte gente che non sa neanche nuotare, muoiono per nulla, ma perché ci vieni se non ci rimane lì? Ma scusa, ma come hai fatto a vivere? Hai 45 anni, come hai fatto a vivere là? Dopo 45 anni ti dovevi venire qua, ma sei vissuto lì, non sei morto, no? Perché vieni qua? Cosa ci fai qua? Te l'ho detto, hanno capito che qua l'ho trovato l'America, l'Italia di Nazio sta travaglia e era un grido di venire in occhio. faccio tutta questa roba qua, spaccio di droga, prostituzione, tutto loro c'hanno. Non l'hai visto, se sono gente che sono tutti neri quelli che usano la droga. Ma poi c'era anche un altro ragionamento. In Italia, certo c'è stata l'immigrazione in America, ma gli italiani che sono andati in America, a New York, non sono andati lì a camminare nelle strade, nelle vie a piedi, sono andati a lavorare, chi faceva il muratore, chi faceva l'idraulico, chi faceva l'elettricista, avevano già un mestiere già pronto, sono andati siciliani, abruzzesi, torinesi, dappertutto, quindi noi siamo andati come migranti là. È chiaro che siamo andati già come un professionista, siamo andati professionisti a fare già dei lavori, già impegnati, non siamo andati a cercare dei lavori, a cercarlo il lavoro, il lavoro ce l'avevamo già, quindi eravamo già impegnati, o già per parenti che c'erano lì, eccetera, eccetera. Gran parte, il 95% delle persone che sono migrate dall'Italia in America erano andate già con un lavoro già predisposto. No, sono andate all'avventura. Questi invece vengono con la barca e non li dobbiamo ospitare. Ma che ragionamento è questo? Se ne potevano stare a casa loro, magari che vengano aiutati se hanno bisogno, ma a casa loro però è diverso, è una cosa diversa. Chi vuole li fa, li dà gli aiuti, chi non vuole non li dà. Però qua stanno esagerando, stanno smarcando, io non sono razzista, però stanno esagerando, va a finire che ci mettono i piedi sopra e comandano loro qua. Sì, si arriverà al punto che prendono il sopravvento loro e noi diventiamo succubi di loro. Si stanno verificando quando il tempo di che c'era quel personaggio che ha fatto la guerra lì in Somalia, eccetera, eccetera. Allora, ti dico io, ma che vendicazione vuoi fare? Cioè, perché noi siamo stati un po' aggressivi lì, ma non è stato soltanto l'Italia aggressiva, ci sono stati anche altri paesi, c'è stata la Germania, ci sono stati francesi. Perché questi qua devono adesso vendicarsi, secondo loro, che sono stati trattati male e adesso dice veniamo a rompere le balle? E tu non devi rompere le balle a nessuno, perché tu quando vieni qua, se alla prima volta che venivano qua, le prime imbarcazioni avessero fatto quel lavoro che penso io sono sicuro che altre imbarcazioni non ce ne sarebbero state. Sì, vorrebbero fermarti prima, vorrebbero fermarti da dove sbarcano, perché è inutile che tu li fai, li accogli alla fine poi. Ma perché lo fanno? Perché ci sono i guadagni, ci sono queste cooperative che guadagnano, che li tengono in comunità, capito? Sono tutte cooperative che guadagnano soldi. Sì, guadagnano soldi, però non hanno, si rendono conto del danno che sta procurando al paese nostro. Questo è il problema. Perché una persona che viene da fuori, che viene ospitata, dove viene ospitata? Questo deve mangiare, deve cagare, scusami l'espressione, deve vivere, dove abita? Sono dei costi allucinanti. Questa spesa c'è a ogni persona che è qui, ma sono spese allucinanti, cose pazzesche, non si possono anche dire. Lo so, Vito. Oh, Vito, ti devo lasciare che mi hanno chiamato a cenare, dai. Ci sentiamo, ti auguro buona serata, grazie per il QSO, mi ha fatto piacere sentirti, ogni tanto fai cucù. Va bene, è buono perché mi hai visto anche te, tante cose, buon appetito, tante cose belle, ciao ciao. Ciao ciao Vittorio.